Il punto di Stefano Folli. La campagna elettorale non è un pranzo di gala, si potrebbe dire, e se ne sta accorgendo Mario Monti. La sua terza forza è sempre più oggetto degli attacchi concentrici dei due maggiori schieramenti. E se Bersani tende a essere prudente nei confronti di quello che domani potrebbe essere il partner di governo del centrosinistra, ci pensa il vice segretario Franceschini a non andare troppo per il sottile, insinuando che anche Monti, oltre a Berlusconi, è una sorta di pifferaio magico che promette troppo. Del resto il PD vuole essere sufficiente non solo alla Camera ma anche e soprattutto al Senato, così che i voti dei centristi non sarebbero determinanti ma al massimo aggiuntivi. Insomma, la partita del potere è entrata nel vivo e nessuno fa sconti. È la logica del cosiddetto voto utile. I due maggiori schieramenti tendono in modo inesorabile a schiacciare le forze intermedie. Monti, come peraltro Ingroia all'estrema sinistra, persegue l'obiettivo opposto, dimostrare quanto siano inadeguati i grandi partiti nel governo del paese, ma è dura combattere su due fronti per 40 giorni.